dire una cosa ai vostri radioascoltatori. Luciani è molto amato dai gay. Ecco qua, beccate questa, Luciani. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Questa sera veramente mi hai fatto incazzare, Cruce. Guarda, veramente ti porto in pancia, ma questa sera per me sei fuori di testa, cazzo, sei sbroccato. Cruciani, ti auguro veramente che tu ti possa convertire, perché mi fai tanta pena per la rabbia, per quest'astio. Cruciani, datti una calmata, dai, capito? Comunque Parenzo, è vero che in Asia succede di tutto, eh? Ci sono delle cose che accadono in Asia che se accadessero da noi faremmo... In Asia? Sì, 85 trasmissioni. Lasciami spiegare un attimo. Leggo da qualche parte che a Shanghai l'ospedale numero uno di Shanghai, che è una grandissima città, offre in cambio di donazioni di sperma, ti giuro, di donazioni, un cellulare, cioè un iPhone. Veramente. Cioè, ti giuro, siccome c'è bisogno di donatori, no, per la riproduzione, eccetera, eccetera, ti offrono un cellulare se tu vuoi. Un cellulare come? Un cellulare, un iPhone. Ci stai pensando, eh? No, beh, devo andare fino a Shanghai, amico mio. Stai pensando? Ma no. col braccino corto che hai, prendi due piccioni con una fava, ma prendi. Ma quale braccino ti corto? Diverti pure col filmino che ti mettono e ti danno il cellularino, eh? Bravo. Di che stai parlando? Te stai organizzando, per il ponte dei morti. A Shanghai, per il ponte dei morti. Bravo, Giuda, incredibile, ragazzi. Parla lui di braccino corto. Ah no, quello no. Poi aspetta, che succede? Che succede? Dopo in Corea, questa è una notizia vecchia che è stata ricicciata da qualche giorno. In Corea esiste un posto dove, se vuoi, ti clonano il cane morto. No, è inutile adesso strabuzzicare. Sono rimasto in silenzio. No, il silenzio che in radio non si può sentire perché non è la televisione. No, benissimo, si può anche però sentire. Però ripeti un po' la notizia, l'ho capito? No, non c'è nessuna notizia, è una cosa vecchia. E quella si che ha suggerito i gatti? Si fa anche, ecco appunto. Ecco, cioè ti danno un'indicazione molto cercavo chiara. Cercavo di italianizzare la notizia. Ti danno capito? Un'indicazione molto chiara. Cioè, quando ti muore un cane o quando ti muore un gatto, lo devi mettere in una coperta bagnata, ma non lo devi mettere in frigo, ma non lo devi congelare. Ah, d'accordo. Capito? D'accordo. Cioè, non lo devi congelare, lo devi mettere in frigo, ma senza congelamento. Bene. No, ti spiego esattamente come bisogna fare. Se qualcuno vuole clonare, io credo che ci sia qualcuno in Italia pronto a clonare il cane. Veramente. Allora, le indicazioni sono queste: dopo che il vostro cane è morto, non mettete il suo cadavere in freezer, invece avvolgete il suo intero corpo con un asciugamano bagnato. Dunque, attenzione, vi muore il cane, vi muore il gatto. Prendete un asciugamano bagnato, mettete il gatto morto o il cane morto in un asciugamano bagnato, mettetelo nel frigo. Avete 5 giorni per poter estrarre le cellule vitali. Cioè, perché poi si prendono le cellule vitali e si fa clonare alla modica cifra di 80-100 mila dollari, capito? Buonasera Cruciani, allora anch'io sono una congelatrice di gatti. Amica mia, se tu vuoi andare oltre il congelamento, se hai circa 100.000 euro da spendere, ti puoi rivolgere a cliniche americane e coreane. Quando ti muore un altro gatto, ormai l'hai congelato, quando ti muore un altro gatto, 5 giorni in frigorifero, un asciugamano bagnato, si arrivano dei signori dalla Corea o dall'America, estraggono cellule vitali e te rifanno il cane o te rifanno il gatto uguale. La gente è matta, eh? Ah, non è... E non è matta e non giustificare anche questo. Non si può giustificare tutto, guarda, ti assicuro, non si può. Adesso ragazzi, però parliamo di cose serie, non si può passare dai congelatori di gatti oppure dai... dai riproduttori di gatti, oh, clonatori di gatti. Il tema del Senato. No, non c'è, Senato. Non voglio sentire la parola Senato. No. Tu lo sai che per me il Senato va preso e va chiuso. Giù la Clerp, tutte queste discussioni sul Senato, l'elezione diretta, indiretta, la gente non frega un cazzo, alla gente non frega nulla, il Senato per me va chiuso, tiriamo giù la Clerp, finito, facciamo un museo. Pare che Renzi, tra l'altro, l'avesse anche minacciato, poi stamattina ha detto che non era vero, no? Nelle discussioni ha detto: ragazzi, non mi fate incazzare, se no chiudo il Senato e lo riduco a museo. Idea bellissima, stupenda, meravigliosa. Dice che non l'ha detta, purtroppo, ma sarebbe stato meraviglioso l'avesse detta. Se mi fate incazzare, così dovrebbe dire un rottamatore. Se mi fate incazzare, lo chiudo e lo trasformo in un museo. Ed è quello che bisognerebbe fare. I lavoratori convertiti, certamente, perché in Italia purtroppo se uno è del pubblico non può essere licenziato. Se un'azienda chiude, i lavoratori sono licenziati. Invece no, se il Senato chiude, in Italia purtroppo non si possono licenziare i dipendenti del Senato. Vero. E va bene, lo accettiamo, li distribuiamo nell'altra amministrazione e li facciamo un museo. Qui visse il Senato, chiude la Clerc e via. Potrebbero mettere un po' di profughi lì dentro. Ma sì, profughi. Tu metteresti un po' di profughi, dici? Ma certo, più utile, chiaro. Cioè, meglio i profughi che il Senato delle autonomie, dici? Meglio i profughi dentro. Ma non c'è un mai no, dubbio. I profughi al Senato no, dai. Ma non c'è mai di dubbio. Un museo. I profughi sì, no, vabbè, dai. I profughi stanno lì un po' museo, in attesa ma perché di essere i profughi, poi... dai. Sì, i profughi, cioè più ma utile. Ma no, che... i profughi più, no, più utile, dai. I profughi no. Comunque volevo dirti una cosa, hai altro da informare per questo sommario? La Lorenzin Libero, il quotidiano no, Libero. Il ministro Lorenzin cosa dice ha fatto, che a me piace la Lorenzin come ministro, te l'ho detto mille volte. Stupenda, meravigliosa, guarda. Ti ho una passione, guarda, ti giuro. C'è proprio un affetto particolare. Ti sei fissato la Lorenzin che è un ministro, che, mi pare una molto che per è stata bene, eletta molto con in una che è stata eletta con Berlusconi, che dice che si vuole alleare col PD, mi può piacere secondo te? Vabbè, adesso è la che il contrario c'è, anche. Perché ti piacciono quelli che invece passano da una parte all'altra, ti piacevano prima, che c'entra? Aspetta, Lorenzin dice che vuole fare un decreto per proibire il fumo con i bambini a bordo, cioè se tu sei in macchina con un bambino non puoi fumare, altrimenti vieni punito, vieni sanzionato. Ci sono degli altri aspetti che io spero arrivino anche alla sensibilità delle persone, cioè come il divieto di fumo in auto quando ci sono i bambini a bordo. Questa è stata una cosa che su cui io sto lavorando da 2 anni. Da 2 anni, tra l'altro pure questo, da 2 anni. Vabbè. Da 2 anni, amico mio, 2 anni per fare una cosa del genere. Almeno se è una cazzata, falla subito, no? Cioè, per me, lo so che tu sei d'accordo, ma falla subito. 2 anni ci vuole per fare una cazzata del genere. 2 anni, va. Questi sono i tempi dell'Italia. Questa è la follia dell'Italia. Per partorire una boiata, che secondo me è una boiata pazzesca, 2 anni. Boiata, una roba utile, dai. Per me è una boiata. Allora, la madre del signor Boetcher, non so quale sia la pronuncia esatta, cioè il signore che ha deliberatamente, secondo tutte le testimonianze, poi per carità non c'è ancora il processo, cioè il processo è già stato condannato una volta a 14 anni, si sono aperti altri processi, signor Boetcher che ha sfigurato due persone insieme a quell'altra ragazza, la signora Levato. La madre continua a parlare, parla di complotto contro il figlio, non è stato mio figlio, è un mostro solo perché ha i tatuaggi, no, ma sentiamola, invece di stare zitta, muta, parla. Immagino come possa essere il viso di quel ragazzo, però mio figlio non gli ha tirato l'acido e quindi mi dispiace tanto per lui, ma anche lì bisogna cercare la verità. Hanno creato questo impianto accusatorio, hanno trovato un mostro da sbattere in prima pagina perché ha 4 tatuaggi addosso, come l'hanno definito, Narciso. E anche questo, se mi permette, credo che sia tipico di tutti i ragazzi della nostra epoca. Hanno creato il mostro, gli altri hanno creato il mostro, non è un mostro lui, no, no, no. Cioè l'idea che uno abbia un figlio mostro che abbia fatto delle cazzate... Non la sfiora. Vabbè, ma purtroppo le madri sono così, cioè fino a quando non vengono messe di fronte, ma nemmeno di fronte, come dire, all'evidenza assoluta, no? Ci sono delle madri che non ammettono che il proprio figlio possa avere commesso delle brutture, come sfigurare 2 persone. Per non parlare del resto, Oh, Feltri dice di avere la faccia del duce nel suo studio, il busto. Vabbè, non è una novità. il busto, ma ho il cranio di Mussolini e quindi il faccione del Duce che mi è stato regalato dal proprietario di un ristorante e me lo sono messo in cima alla libreria e lì l'ho lasciato. E siccome io ho volto le spalle evidentemente alla libreria, non è che ho l'ossessione di vederlo ogni momento, però quelli che vengono a trovarmi lo vedono e leggo nei loro occhi uno stupore e quasi il terrore, e ciò mi diverte moltissimo. Allora, voglio dire ai signori tassisti, amici tassisti di Torino e anche al suo portavoce, insomma chi li rappresenta, che dovrebbero tirare subito fuori il nome di questo tassista, se già non ce l'hanno, anzi sicuramente sanno chi è, che ha fatto una cazzata pazzesca, diciamo la verità, perché non ha preso sulla propria vettura Pancalli, che è un esponente del Comitato Olimpico Italiano, è stato presidente della Federazione di Calcio, che ha un handicap e sta sulla sua carrozzina, ha chiesto un taxi, questo ha detto no, io non prendo persone con la carrozzina, siccome non si può, è contro la legge oltre che essere una cazzata, ma è servizio pubblico, non sì, può permettersi, è chiaro, non lo può fare questo signore, questo imbecille, direi, questo tassista imbecille di Torino, tirassero fuori il nome. Questo imbecille, sono un tassista, non è che le categorie, sì, questo imbecille, certo, imbecille, un cretino, sì, no, un imbecille, ma no, ma... poi tra l'altro il oppure si ascolta la trasmissione, telefoni qua, esatto, in diretta all'800 24 00 24, il capo... e ci spieghi perché ha fatto sta cappellata su. Il capo dei tassisti di Torino tra l'altro ha detto beh, gli offriamo una corsa gratis a Pancalli, beh, è meglio stare zitti, infatti Pancalli ha risposto dicendo io il taxi me lo pago da solo, che ma cazzo certo, offri una corsa, mendicante, andiamo, dai, su, mica, dai. Vale. Tu che fai quando vai a dormire, ti sogni traffico, la zanzara. Allora, chi è un grande fumatore e penso che fumi in macchina anche davanti a suo figlio, anzi sì, posso dire di averlo visto fumare forse davanti al figlio, non so se in macchina, è sicuramente Filippo Facci. Ma fuma la sigaretta elettronica, no, Facci, no, dai. No, anche la sigaretta normale, no, che cazzo non dici? Più, non ma più, come no, so, ma che dici, fuma? Fuma quella elettronica, fuma te come... lo dico io. Ma fuma come un pazzo. Fumava tanto, ma fuma. Ma no, Filippo? Fuma. Ciao. Fumo tutte e due e posso dire anche che quest'estate ho fumato oltre i 4000 metri, quindi... Vabbè, questo fumare oltre. Ma com'è, sì, la sensazione? Reality, lì, nel vabbè, coso. Non si può dire, non, no, si, può non dire. Si può dire reality. Montebianco, Montebianco. Vabbè. Senti, io non capisco una cosa, ma che sensazione è fumare a oltre 4000 metri? Beh, diciamo che è un po' una sfida, nel senso che c'è poco ossigeno e la sigaretta brucia pochissimo, non si spegne mai, però insomma, l'ho detto un po' per fare, come si dice in gergo, lo sborone, no? Ma tu davanti a tuo figlio, fumi, sì? Sì, certo. E in macchina? In macchina anche sì, certo. Cioè sì, quando certo. C'è tuo figlio in macchina fumi tranquillamente. Beh, ti arriva fra poco la sanzione, sì. Di cosa? È la sanzione della Lorenzin, lo sai, sì, la multa della Lorenzin. Sì, sì, l'ho vista sta cosa. Non so se stavi parlando della minaccia che non c'entra con la Lorenzin di praticamente far pagare una multa a chi fuma in auto, quando sì, negli sì. Stati Uniti ci sono degli stati e delle città dove si può fumare solo in auto, questo è il paradosso. Oppure la campagna assurda che sta facendo, di cui tra l'altro oggi credo che scriverò, sì. E di cui ha scritto anche oggi Vittorio Feltri, quella per cui praticamente... Ti danno dello scemo, ti danno dello scemo. Esatto, danno non più che a me, lo danno a circa quasi 11 milioni di fumatori, evidentemente ritenuti scemi, cioè incapaci di valutare i rischi che la prosecuzione di questo vizio comporta. Cioè è una roba da... veramente da incazzarsi. Ma scusami, frega, io fumo ad esempio. Però ma non la, è che campagna, mi sento offeso. La campagna, sinceramente, chi se ne frega? Uno appunto. È giusto anche che uno faccia delle campagne. C'è una contraddizione. No, fa male, non è, no? Non è chi oggettivamente. Se ne frega, non è chi se ne frega. Perché? Perché voglio dire, vabbè, da una parte c'è la cosa che scrive Feltri oggi, no? Che vabbè, c'è la lo Stato che prende i soldi, lo Stato che prende i soldi. Beh, cioè. sì, beh, vabbè, però che c'entra quello è normale, dai, su. Sì, è normale, però va bene, il 75% di quanto si paga al tabaccaio se lo piglia lo Stato, che poi in parte ci dice non fumare, non darmi i soldi. Certo. Vabbè, comunque il fatto che ci siamo abituati a questa assurdità non toglie. No, è vero, è un'assurdità. È una contraddizione, indubbiamente è una contraddizione. Però c'è un'altra sì. cosa, e qual è? La campagna è, dice anche delle balle proprio sonore, nel senso che loro, siccome la scienza statistica permette di dire qualsiasi cosa, la Campania nella conferenza stampa Lorenzini ha detto è la prima causa di morte europea, addirittura mondiale. Invece non è la prima causa di morte. No, a parte che comunque sono tutte statistiche che bisognerebbe vedere. Cioè tu non credi che si muoia per fumo? Dimmi no, la verità. Ma io ci ho scritto un libro anni fa. Ti dico la verità, l'ho scritta. Non credo assolutamente che la morte per fumo sia prospettata correttamente. Sicuramente c'è una correlazione col tumore ai polmoni. Sicuramente non mi pare poco. Mi pare semplicemente quello che è. Anche con l'infarto del miocardio c'è una correlazione, voglio dire, però non è quel tipo di calcolo che viene prospettato per cui ti dicono quasi 83.200 morti per fumo dovuti, via, cioè, non è così, e comunque la balla è un'altra. La balla è che la prima causa di morte sia appunto il fumo, la prima causa di morte mondiale è l'alimentazione. E nel caso dei giovani under 24 è l'alcol, ecco, sì. Voglio dire che sono due argomenti sui quali mi sembra che il Ministero della Salute potrebbe esercitarsi. Però qual è il problema? Che ogni volta che al Ministero della Salute arriva un ministro antifumo ci dobbiamo assorbire, soprattutto in special luogo, la campagna antifumo. Adesso anche mamma, peraltro. Adesso anche mamma. Chissà se è un caso. Ecco, poi c'è un altro paradosso, posso dire, visto che la citavate prima, la sigaretta elettronica. Perché, insomma, il metodo antifumo più efficace della storia è stato dimostrato sono proprio le sigarette elettroniche. Si hanno aumentato le tasse, hanno fatto calare è un settore che è stato stroncato dalle tasse che stanno completamente strozzando il settore. E io non ho capito questa cosa qua, dei figli scemo due volte, prego. Cioè, più che scemi i fumatori, dice scemo lo Stato. Però la questione del fumo in macchina con i bambini, no, quello è brutto. Io non fumo in macchina, ad esempio. Vabbè, ma ognuno però fa la sua scelta, fa quel che vuole, cioè, sì. Qui la follia è che ti devono dare una multa se fumi in macchina col bambino, cioè, ma ti rendi conto o no? A parte il fatto che dice di averci lavorato due anni, oppure la macchina cabrio, come Cruciani sa particolarmente, quindi cioè, non è, mio figlio tra l'altro gli dà fastidio il fumo, per cui me lo dice se il fumo è eccessivo. Però insomma, qua esistono, se c'è una, come dire, un utente informato al mondo che sa quello che fa è il fumatore, per fatto deve essere davvero scemo. Sì, poi se vuole affumicare, non è sbagliato sanzionare i comportamenti anche se entrano nel tuo intimo domestico, no? Ma tu sanzioneresti pure quelli che vanno a prostitute, te credo. Senza dubbio. Ti credo che poi puniresti chi fuma in macchina. Vogliono sanzionare uno che fuma in macchina, magari con la macchina aperta completamente, poi questo arriva a casa e gli danno il cioccolato con i grassi idrogenati, con l'olio di palma. È vero. No, questo ha ragione. Però, sai, se tu fumi hai una mano sul volante e quell'altra con la sigaretta, è anche pericoloso, peraltro. Parenzo, ti giuro che il tuo argomento è più serio dell'altro. Nel senso che io certe volte per accendermi la sigaretta magari mi sono distratto un attimo. Ma questo io lo accetterei come argomento, ma non ti parlano di questo. Non hai paura del fumo? Sei un assassino, il fumo passivo, altra balla conclamata. Cioè, una balla, il fumo passivo è una balla. Cioè, tu non hai paura di affumicare tuo figlio, di provocargli indirettamente? No, allora, che il fumo passivo sia una balla statistica non è neanche un'opinione, è proprio sicuro. Chi vi dice il contrario, ditegli pure che è un mentitore, perché voglio dire, cioè, vi dico solo che stando in un aereo, i vecchi aerei dove si poteva fumare, nel settore fumatori, per fumare l'equivalente di una sigaretta, un non fumatore, respirando l'aria col fumo degli altri, dovrebbe stare in aereo per 5 anni. Dico solo questo. Una balla pazzesca. Dunque, il fatto che tuo figlio possa aspirare fumo dalla tua sigaretta non te ne frega nulla. Al di là del fastidio. È sbagliata. Io sto attento che mio figlio non respiri proprio, non gli butto il fumo in faccia. Sono adulto, vaccinato e non ho bisogno delle campagne e delle multe per avere un po' di buon senso. Questo ha ragione. Che il ministero ci dice che a quanto pare non abbiamo perché siamo scemi. Non sono scemo. E dicono pure di averci lavorato 2 anni. Grazie a Filippo Facci, giornale radio. Prego. Stavo ascoltando Radio Capital adesso. Zuccone è molto più divertente. Alle porte dell'Europa, Radio 24, lungo le rotte della migrazione. Subotiz, Edirne, Chop, Kos e Lampedusa. Sono le porte dell'Europa, luoghi di una frontiera su cui preme l'ondata migratoria di chi fugge da guerre e disperazione. Nel mese di settembre, Radio 24, con i suoi inviati, vi porterà ai confini di un continente che si sente sotto assedio. ogni venerdì nei GR in effetto giorno e in effetto notte, il sabato mattina nel reportage europeo. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta La Zanzara. Lancio una proposta, facciamo una colletta noi ascoltatori e sovvenzioniamo noi il tempo della pubblicità e noi sentiamo più Zanzara. Voglio più Zanzara e meno pubblicità. Sir Elton, hello. Hello, Dimitri. How are you? I'm fine. I'll be interpreter between you and Mr. Putin. So. Okay. Thank you. And you'll tell me what he's saying, right? Okay, sure. Здравствуйте, сэр Элтон. Я высоко ценю ваш вклад в мировую музыкальную культуру и борьбу за права человека. He told that he estimate everything what you invest in music culture and for human rights in the world. Tell him I'm extremely honored to be on this, that he's calling me and that I'm speaking to him. It's a great privilege to be able to speak to one of the most influential people in the whole world. It's amazing. Avete sentito la genialità, ve l'ho lasciata così integrale, eh? Adesso ve la traduco bene, più o meno ve la traduco bene. Prima era il portavoce di Putin, sì, finto portavoce di Putin. Finto portavoce di Putin che faceva anche da traduttore, diciamo, dal traduttore, l'intermediario tra Elton John e Putin. Poi a un certo punto c'era Elton John che diceva: lei farà il traduttore? Lei farà il traduttore? E mi tradurrà quello che dice il presidente. Poi gli passano il presidente che parla in russo, finto presidente ovviamente che parla in russo, uno dei due comici russi. Molti hanno parlato di radio, ma le radio non c'entrano niente, questa volta è la televisione, ma il criterio è ovviamente lo stesso. E poi avete sentito questa voce di Elton John, il quale da anti-Putin si è sciolto, si è completamente sciolto. Sono veramente contento, sono veramente onorato di parlare con una delle persone più influenti al mondo. Mi ricorda tanto Di Freddi col Papa. Beh, un po' è vero, sì, è vero. È vero, Di Freddi col Papa. Lo manderemo più avanti. Mi ricorda più avanti. Tanto questo. Tanto. È vero, è vero. Cioè, quando Di Freddi si sciolse di fronte al Papa. Lui è l'anticlericale, l'antipapista. Santo Padre, sono emozionato, sì, no? Sì, fra sì. Papa Francesco. Chiese addirittura una, no, di fare l'introduzione. Un'udienza e di avere la prefazione al suo libercolo. La stessa cosa il signor Elton John. Vabbè, da anti-Putin. Ma ci sta questo, no? Ma no, ma che. Se in anche Italia, a me mi chiamasse Putin, no? In Italia, no. No, no, no, tu non c'entra niente. Elton John è un militante della causa gay, il quale ha detto delle cose contro Putin, ovviamente da parte sua va benissimo, e che di fronte alla telefonata di Putin si mette lì in ginocchio, diciamo la verità, si mette in ginocchio, e non dico altro, si mette in ginocchio davanti a Putin, in ginocchio. E non dico altro. No, ma si è capito, non ho cuore che continua a ripetere, non dico altro, si è capito, si è capito. In ginocchio davanti a Putin. Si è capito. E c'è ancora chi critica queste cose, capito? Signor Michele Serra su Repubblica e altri ancora dicono, beh, però pochi devo dire, pochi devo dire. Chi critica, cioè lo scherzo, questi due geni russi, andrebbe dato, credo il Pulitzer a questi qua, il Pulitzer. Io proporrei il Pulitzer per questi Pulitzer due comici. Forse un po' eccessivo, però. Oppure un Nobel, un Nobel per la, per non cosa? So, per la pace? Per la letteratura, vale, credo. Per la letteratura. Credo per la letteratura. Un po' eccessivo. Sì. No, che eccessivo, assolutamente no. Allora, 800 24 00 24, Carmela da Messina, vai. Non c'è. Salvatore da Roma, dai. È pronto? Sì, dimmi Salvatore. Buonasera, dimmi. Saluto Radio 24, il vostro direttore, il dottor Napoletano. Ma è a noi che vorrei... ci frega, scusa, perché vuole salutare? Perché è una cosa seria, una radio seria. Sì. Allora, senta, io siccome... Scusa, Parenzo, com'è che faceva Napoletano? Com'è? No, hai detto saluto. No, ma com'è Napoletano? Rispondi, no? Rispondi. Napoletano? Come se fosse Giorgio. Napoletano, no, il direttore? Grazie, grazie. No, no, no, com'è la... la... Grazie, grazie. Com'è la... della, no, della... no, com'è no. Cosa? Com'è Napoletano? Com'è? Non so, fa, come si fa? Sì, lo sai fare, lo sai fare. Sì, sì che lo sai fare. Adesso non mi ricordo. Come fa? Saluta. Non mi ricordo, adesso non mi... Saluta, saluta. Ma non mi ricordo. Saluta l'ascoltatore, dai, saluta. Grazie, grazie. Grazie, grazie ascoltatore. No, grazie. Dai, su. Mamma mia, che te la fai sotto. No, Salvatore. Ma non so farlo bene, veramente. Bene, adesso dai. lo affiderò. Su. Salvatore, dimmi. Allora, io vi ascolto spesso. E proprio anche ieri, l'altro ieri. Va bene, però andiamo veloci, ragazzo. Dai. Ho sentito parlare dei migranti. Sì. Io penso di avere l'idea giusta per risolvere. Eccolo qua, l'idea giusta. Beh, oh, però, ragazzi, mesi che la gente si arrovella, statisti, Hollande, Merkel. Sentiamo, prego. Infatti, parlo proprio. Sì. Parlo dimmi. Perché le varie nazioni che si stanno incontrando per cercare. Vabbè, dai, vai, vai. Qual di è parlare l'idea? Della cosa, no? Allora, per esempio, sì. Si potrebbe identificare sì. una grande area che magari fa parte di 3-4 nazioni millimetrofe, sì. nella quale si potrebbero poi far entrare tutti i migranti, dove poi potrebbero costruire la loro città, quindi lavorerebbero per loro, ponti, strade, case. Cioè tu metteresti, che ne so, come voleva fare Hitler con gli ebrei in Madagascar? No. Beh, un'area grossa, non so, che faccia parte, un pezzo della Germania. Uno stato di migranti, vabbè, una puttanata, dai Salvatore, hai detto una puttanata, va benissimo, per carità, va bene. Cioè, sì, ma questi lavorerebbero solo per costruire la loro nazione. Ma è una stronzata, non si può fare. Io sono contro l'immigrazione clandestina, voglio regole durissime, ma è una cosa che non si può fare lo stesso. Ma in questa maniera qua non ci sarebbero più gli stati che si oppongono alle quote. Ma non è vero, come fai? Tu vorresti creare una specie di città dei migranti o città sì, o comunque. Ma in Europa, vabbè, ho capito, di stato dei migranti. Vabbè, ma impossibile, magari si scannano poi tra di loro. Come fanno a organizzarsi all'interno? Ma no, perché gli si darebbero. Sì. Gli si darebbero. Questo è come i ghiacciai di Boso, i tecnici. E gli si darebbe tutto. Vabbè, non si può fare, Salvatore, dai, non si può fare. Veramente non si può fare. Se la metta dai. Via, su. Dai, su, non si può fare. Giovanni da Bergamo, dai, Giovanni. Sì, ciao. Dimmi, volevo dire, solamente che il fumo passivo esiste e come esiste. In quanto mia madre, dopo un controllo, gli dissero di fumare di meno. Mia madre che poi con il fumo non aveva niente a che fare. Mio padre fumava sempre... In pratica il fumo passivo e vabbè ragazzi l'ha detto Facci e non è che l'ho detto io, Filippo Facci ha detto tutti i dati statistici dimostrano, tutti gli studi dimostrano che il fumo passivo, secondo quello che dice lui, il fumo passivo è una grandissima balla, e quindi mi scusi, il dottore che aveva diagnosticato mia madre che fumava troppo lo dica Facci, non lo dica a me, lo dica Facci, lo denunci. Massimiliano da Padova, vai Massimiliano. Ciao Giuseppe. Dimmi Massimiliano, dimmi. Pronto, eccomi qua. Ascolta, parlavo solo un attimo per scoprire della macchina, delle sigarette in macchina. Non è solo un problema dei bambini. Esiste già una legge che dice che in macchina non si possono tenere le mani staccate dal volante per nessun motivo. Mm. Io parlo da ex fumatore, ex agente di commercio, per cui insomma ho qualcosa da dire. Allora praticamente se tu noti i fumatori tengono la sigaretta nella mano sinistra vicino al finestrino. Sì, ma anche io che fumo sigaro ogni tanto, anzi lo fumo in macchina ogni tanto. Sì, no, ma dico, però male, di conseguenza non si usa le frecce. Ma ragazzi, ma non rompete i coglioni con queste stronzate, no, aspetta. Su. Il problema è un altro, no? Il problema è un altro, perché è sulla mano sinistra la sigaretta. Vabbè, sulla mano, ma quello è un altro discorso. Se uno viene, scusami Massimiliano, vabbè, se uno non tiene le mani correttamente sul volante, a prescindere che sia la sigaretta, a prescindere che sia. Ma infatti è vietato l'uso del telefonino. E va benissimo, e va bene, d'accordo. Ma la questione d'accordo. È la sanzione se c'è la sigaretta in macchina o addirittura il bambino. Dentro la macchina sì. E tu fumi. No, quella del bambino. Questa no, è una cosa diversa. Se io ho la sigaretta in bocca e le due mani attaccate al volante, mi poi sanziono ti lo stesso. La cenere, ti bruci i pantaloni, fai ma siete veramente, ma sono cazzi miei, io, ma ragazzi. Ma no, anche di me che sono sull'altra macchina e se mi vieni addosso perché tu c'hai il tuo zozzo sigaro che ti puoi fumare a casaccia tua, io il sigaro me lo fumo sempre, ma me lo fumo a casa mia o alla finestra aperta. Maurizio da Vicenza, ho capito, Maurizio Vicenza, dai, in macchina del talebani che talebani ma coglioni. No, perché se sei in macchina e mi vieni addosso per la tua distrazione che ti fumi la allora, tua sigarettina vietiamo la musica. musica in macchina. Vediamo, cioè, la radio, perché anche la radio devi staccare la, devi staccare la mano, il braccio e portarlo. Maurizio, ma non c'è continuità, non è che continuamente fai quel gesto di cambiare canale. Io invece sono malato, voglio cambiare continuamente radio quando sono in macchina. Maurizio, Vicenza, sbaglio, devi stare solo, solo su Radio 24. Dimmi. Senta, volevo dire, sì, è giusto la campagna contro il tabagismo, che comunque è una brutta piaga, eccetera eccetera. Però volevo ricordare, signor Parenzo, che lo vedo molto agguerrito in tema, che se non sbaglio ha ammesso lui di fare uso di sostanze psicotrope, cioè si fa le canne. E allora? Beh, allora, in passato, sì, allora, adesso è tanto che non lo faccio più. Non si può avere la patente di e fumare le canne. Non mi sono mai messo in macchina, non mi sono mai messo in macchina dopo aver fumato mezza canna, mai. Non c'entra, la commissione medica di Padova dovrebbe convocarla, farle l'esame del capello e se lei è positivo, se lei è positivo, a Padova ci sono già altri problemi, dovrà fare l'esame del capello a Bitonci per le sciocchezze che delibera, altro che a me. È la commissione medica di Roma, che ne so io. Comunque, no, attenzione, Parenzo ha detto una cosa, il sindaco Bitonci per le cose che decide a Padova dovrebbe essere sottoposto a un esame del capello, non lo so, del capello. Ma di qualcosa, cioè, gli hai dato del drogato, gli hai dato del drogato, fermo, ma no, che, non credo che prenda sostanze, fermo, però fa cose fermo folle. Che devo dare sto cazzo di borsa, fermo. Voglio più zanzara e meno pubblicità. State ascoltando un programma offerto da G-Group, la prima multinazionale italiana del lavoro. Scopri i nostri servizi su ggroup.com. La zanzara. Oh, make me over, I'm all I wanna be, a walking study. Vi salutiamo e benediciamo da Roma, amatissimi figli. Allora, l'abbiamo già detto ieri, oggi è stato deciso ufficialmente, in Lombardia non daranno più contributi pubblici Regione Lombardia, a quegli alberghi che ospiteranno i profughi. Che follia. I profughi. Oh, sentiamo la signora Beccalossi su questa, che è assessore, Io Fratelli conosco d'Italia. Evaristo Beccalossi. No, certo. Beccalossi è quella che tu chiami Manganelli, sì, d'Italia. La fattina bionda. Sì, sì, signora Beccalossi. La fattina bionda. Noi abbiamo stabilito che non accederanno a contributi pubblici quegli albergatori che negli ultimi 3 anni hanno ospitato profughi, ovvero daremo contributi solo a coloro che hanno fatto davvero gli albergatori. Ma è vero che c'è anche la sospensione della licenza? Ma no, assolutamente no. Volevano sospendere la licenza, poi ci hanno ripensato. Allora, l'albergatore che in Valtellina ospita i profughi e sostanzialmente campa, sopravvive grazie ai profughi, ma che chi gli l'ha mandano. Detto, beh, sì, l'ha detto anche chi lui. Detto? L'ha detto anche lui. No, va bene, lui magari detto, lui in, una, detto, in una fase, in un periodo, ma che cosa vuol dire aspetta, questo? Non ho detto, per me è una cazzata togliere i finanziamenti pubblici a chi ospita i profughi. Cioè, che senso ha, cioè, punire quelli là? Cioè, non dovrebbero arrivare, non dovrebbero essere ospitati negli alberghi, secondo me. Li dovrebbero mettere da un'altra parte. Purtroppo devono andare negli alberghi. Se c'è qualcuno che ci fa i soldi, chi se ne frega? Appunto. Oh, si chiama Salvi questo qua, è stato minacciato, sentiamo. Assolutamente non mi ha spaventato, anzi mi ha ringalluzzito, quindi personalmente mi dispiace, io dico sempre che di nemici intelligenti non ce ne sono, non ne ho, così come tanti nemici tanto onore, peccato appunto per loro. Ci faccio i soldi, perché dovrebbe fare schifo, dice questo signore. E purtroppo, chissà perché, non riesco a capire, quando io dico che faccio anche i soldi con queste persone, perché alla fin fine io sto dando un servizio che mi viene chiesto, non riesco a capire veramente perché la cosa faccia schifo. Voci dalla Valtellina. Senti cosa dicono in Valtellina, Lei se avesse una casa in più o un albergo, no, li ospiterebbe? No, ne hanno otto, non la produce piuttosto. Metti mia, dai miei. La brucierebbe? Sì, piuttosto. Piuttosto la brucierei, la traduzione dal valtellinese. 800 24 00 24. Tindaro, Messina. A proposito della riforma del Senato, di cui si discute, in realtà non frega un cazzo a nessuno, ma vi pare possibile, dico solo una cosa, vi pare possibile che Renzi sia passato dalla grande riforma, dall'idea di cambiare lo Stato, alle trattative, alle piccole trattative con i verdiniani, con gli alfaniani, no, con la sinistra del PD, però è la politica questa, con qui l'ha fatto tutti, con Tosi, sì, per carità, però sì ma è la politica, sì, è la politica, d'accordo, però cioè quello lì ha, lui quello ci aveva promesso Renzi di volare un po' più alto nelle trattative con Tosi e con Verdini, però capito? Per raggiungere dai l'obiettivo lui deve correre, dice faccio le riforme, ma e dai, a questo ma non punto si pur fa di così, farlo dai, fa l'accordo. Ma non è chiunque vero, perché poi in questo dimostra di essere, come dire, cinico al punto giusto, perché poi per la alla politica fine, se è così, c'è una, no, è un aborto giuridico quello che produci, capito? Ma lui però la riforma è quella che voleva, cioè, dov'è il, anzi ha cassati tutti gli emendamenti, va dritto come un fuso al Senato, o questo, arrivederci, grazie, e questo è coerente. A parte che, anche, non è che ha anche la riforma del Senato così come è stata impostata da Renzi a me non piace, perché comunque resta un'ambiguità, no, resta un'ambiguità bene, sulle funzioni del Senato, un pasticcio siamo ci sarà, d'accordo, questo va bene, ma non è questo il punto, è il metodo che conta. Vabbè, Tindaro, vai. E allora, Gruciani, tu ieri sera hai detto che, visto che noi italiani non vogliamo fare determinati lavori, è giusto che lo facciano gli immigrati. No, io non ho detto che è giusto, ho detto che è inevitabile che in alcuni casi il posto sia stato, i vuoti alla fine vengono riempiti. Sì. Se uno non vuole fare il badante, se c'è bisogno di badanti perché noi, le donne adesso lavorano di più, per una serie di motivi, questi vuoti che ci sono, questi vuoti vengono colmati, siccome non ci sono i badanti, ci sono le badanti italiane, non sono sufficienti, oppure alle italiane o agli italiani non va di fare badanti, i pizzaioli, eccetera, eccetera. Questi vuoti sono stati colmati, punto e basta. Poi io non credo che noi saremmo un paese migliore se ci fossero tanti immigrati, come dice Parenzo, che comunque potremmo risolvere il nostro problema della, che ne so, della, delle pensioni grazie agli immigrati. È una puttanata. Si creano nuovi lavori, ad esempio. Ma non è vero, ragazzi. In questo momento si spendono un sacco di soldi per la sanità. Si creano nuove figure professionali, nuovi lavori, si costruiscono asili, ad esempio, in più. Come fanno in Germania? Per adesso un sacco di costi. Per adesso costano e basta. Non è questo il concetto che volevo esprimere, semplicemente volevo dire, noi ce la prendiamo tanto con gli immigrati che magari ci prendono il posto di lavoro, perché come hai detto tu, noi non vogliamo farlo, ma noi dovremmo prendersela con quei bastardi di imprenditori e compagnia bella che preferiscono assumere un povero disgraziato per 20 euro al giorno senza messo in regola. E quindi io, giustamente, che pretendo di essere messo in regola e di avere uno stipendio minimo decente, giustamente loro preferiscono prendere l'immigrato e non me. Vabbè, ma quello si tratta di cose in nero, che vuol dire? Ci sono di cose senza regola, quando non ci sono, quando uno non, il problema è questo, quando il uno problema è questo. Beh, amico mio, però quando uno nel non rispetta, nel mio paese c'è l'80% di gente che lavora o in nero o se è messo in regola risulta in busta paga che prende 1.000 euro, ma in realtà ne prende 600. Se, amico mio, ma purtroppo questo è la piaga, un po' perché il costo del lavoro è ancora alto in Italia, un po' perché in alcune zone d'Italia pagare in nero mi sembra la normalità. Grazie Federico. Federico, vai, Milano. Federico, dimmi, dai. Franco Padova. Eccolo qua, Franco, dimmi. Da Padova. Eccolo qua, buonasera signori, buonasera a tutti. Buonasera caro allora, Franco. Non è vero, signor Cruciani, che il costo del lavoro in Italia è più caro che in altre parti? Perché in Germania costa di più, gli operai prendono di più, sono maggiormente protetti. Va bene Franco, ma voglio vai arrivare al motivo per cui vi ho chiamato. Sì. Io ricevo abbastanza volte, giro il mondo. Sono un agricoltore che fa anche il commerciante. Sì. Sono anzianotto, ho 73 anni. Sì. Sono operativo e utile alla società perché compro macchine, perché pago benzina, pago tasse, multe e sono regolare. Va bene, allora, ti credo, questo allora è normale. Allora volevo dire, signor Cruciani, che ieri sera ho sentito parlare una persona di una trivialità. Ma chi? Che si chiama quel balocco di grasso che si chiama Borghezio. Sì. E che l'abbiamo a disonorare in nome dell'Italia. Va bene. In giro per il mondo, al quale voi date spazio, io ne sono lieto, perché si evidenzia la trivialità e la volgarità di un grosso personaggio della Lega, che è lo specchio della Lega, e che io vi imploro, andate una volta a una festa della Lega e sentirete per davvero quello che letteralmente si chiama razzismo, cattiveria, spocchia, arroganza. Vabbè Franco, abbiamo capito, comizio antilega. Oh, hai sentito questa? Vladimir e Silvio andarono pure a visitare l'antica azienda vinicola Massandra, che già produceva ai tempi degli zar. La direttrice, una tale Pavlenko, per l'occasione ha stappato una preziosissima bottiglia di Jerez della Frontera, annata 1775, ammazza, portata dalla Spagna dal fondatore delle cantine. Si tratta di una bottiglia che normalmente nelle aste internazionali viene battuta tra i 100 e i 150 mila dollari. Tra i 100 e i 150 mila dollari di bottiglia. Cioè tu versi questo Jerez della Frontera, 100-150 mila dollari, una specie di brandy di sherry, no? La procura generale ucraina, tra l'altro l'Ucraina ha proibito l'ingresso in Ucraina di Berlusconi per i prossimi 3 anni, perché è andato in Crimea, eccetera, sì, eccetera. Sostanzialmente perché è alleato di Putin. La procura generale ucraina ha aperto una causa penale per appropriazione del patrimonio in quantità particolarmente rilevanti in base all'articolo 191,5 del codice penale. Come combattono? Va bene, Federico Milano, vai. Grazie di avermi fatto intervenire. Dimmi. Io sono un medico specialista in malattie respiratorie e mi occupo da 20 anni di curare le persone che fumano. Sì, sì. Volevo solo fornirvi due dati scientifici che non ho sentito in trasmissione. Sì, prima, no, cosa, ma noi non forniamo dati scientifici. No, Facci ha detto, una cosa. Due cose che vi possono interessare. Prima cosa, la nicotina non è un vizio, ma è una dipendenza come la cocaina, l'eroina e le altre droghe. Nella scala internazionale... Come l'eroina non credo, la dipendenza allora, come l'eroina. Esistono dei lavori scientifici. Come l'eroina, va bene, lei ci dice che come l'eroina, va bene. Non ha la stessa potenza dell'eroina, è paragonabile alla cocaina. Mm. La marijuana, che è tanto interessante al pubblico, ha una potenza che è circa la metà di dare dipendenza di quella della nicotina. Okay. Quindi le campagne come quella del Ministero, che si basano sul concetto di vizio, sono destinate a fallire perché il fumo non è un vizio, è una tossicodipendenza. E in tutti gli ambulatori specialistici noi curiamo queste persone con farmaci che bloccano l'azione della nicotina nel sistema nervoso centrale. E mi sembra un dato interessante. Seconda cosa, il fumo passivo è scientificamente provato che dà più o meno i danni in una tolleranza del circa un terzo rispetto al fumo attivo. Si può misurare agevolmente facendo un esame dell'urina che misura un metabolita, cioè una sostanza che viene prodotta dalla nicotina, in modo assolutamente sicuro. Ci sono Quando Facci dice prima che è una cazzata, è assolutamente falso, ci sono tonnellate di letteratura scientifica sul fatto che provochi è chiaro che fa male, dai, quello che fa che il fumo passivo può causare anche il cancro. C'è uno studio italiano che è durato 10 anni, che si chiama Sidria numero 2, che ha calcolato l'incidenza di asma bronchiale polmonisti su 20.000 bambini di genitori fumatori, osservando statisticamente dei dati impressionanti sulla frequenza di bronchite e di asma in questi bambini. Grazie. Giovanna, prego, Genova. Bene. Giovanna. Che è il cane? Chi ha risposto? Il cane, Giovanna. È arrabbiato. È incazzato il cane. Giovanna? Questa però fa chiamare il cane. Qui ormai è stupendo. Tutto finito. Magari pensa che il cane possa parlare. Giovanna. Che carità. No, ho finito, il cane l'ho chiuso in un'altra stanza. Pensavo che avesse soppresso. Allora io ho telefonato per dirvi che secondo me quel tassista di Torino invece di offrire una corsa gratis al poveretto, che poi poveretto... No, ma non l'ha offerta lui, il servizio taxi là, è la cooperativa dei tassisti, lui manco si è palesato, non si è... Poi magari sentiremo un'altra versione da questo tassista. Secondo me quelli lì dovevano sospenderlo. Ma qualcuno dice che andrebbe tolta la licenza, non so chi, i consumatori. Cioè, perché voglio dire, non è che uno fa il bello e il cattivo tempo. Adesso, se uno mi dice che non prende il cane perché è allergico al pelo, è una cosa plausibile. Ma che uno mi dica che non prende una persona handicappata, cioè voglio dire, non esiste. Giovanna, sì, ma lei sta dicendo delle cose abbastanza scontate, cioè che uno... ma non una punizione di fare, non so, la giornata, ho sentito adesso al vostro giornale radio, la giornata offerta gratis ai portatori di handicap. È una bellissima cosa, però... No, ma quello là è quello che dice Pancalli, cioè qualcuno gli ha offerto addirittura una corsa gratis da sì, Torino. Ma cioè... sono cavolate. Cioè, io non lo so, se uno ha commesso un'infrazione, se uno ha commesso un'infrazione dicendo io non porto gente con la carrozzina, oppure. Tanto io non uno so... non si può rifiutare perché è servizio pubblico. Quello vabbè, che se dice uno anche... si rifiuta perché non vorrei già... dire un reato, perché tu non vuoi mai che si parli di cose, quindi non è la legge, i tribunali, comunque è un reato. Vabbè, Giovanna, arrivederci. Questa è vera, eh? Il peggio di Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Servi di Roma fuori, ascoltatori. Senza dubbi né ripensamenti. Allora io vado a caccia da 50 anni e domenica ci sarà l'apertura, no? E chiaramente ci saranno su Rai 3 tutti i pentolari, tutti quelli che vengono a romperci le balle gli anni. Quando qui a Como, il nostro comune è bello rosso, dà permesso in Piazza d'Armi, dove di solito c'è Luna Park, la festa di quei beduini così, di scannare agnelli, sistema RAS. Che io vorrei vedere dove sono i vari WWF, l'IPU e pentolari che vanno lì a romper le balle a loro. E Nabucco salirà alto nel cielo e ti cullerà, figlia della libertà. Vorrei ricordare a quell'individuo vestito in modo strano che qualcuno si ostina a chiamare Santo Padre, che dice che le famiglie e le parrocchie devono ospitare i clandestini, che se questi signori poi si sentono poco bene, deve intervenire la nostra assistenza sanitaria. Assistenza sanitaria che pagano sempre i soliti. Padania bella e libera. Vengono da noi mantenuti, non lavorano, no, perché è troppo chiedere loro di fare qualche cosa di utile per la collettività, e inoltre non pagano la tassa di soggiorno che io invece devo pagare anche quando mi devo trasferire per lavoro. Allora tutte queste cose sono delle porcate tremende. Il potere falso. Ma secondo questo ascoltatore i migranti dovrebbero pagare la tassa di soggiorno. È molto interessante. Però, sentire la tassa di soggiorno non è male, è un pezzo comico. Cioè, se sono ospitati in albergo devono pagare la tassa di soggiorno. Ma non è male, dai. No, va bene, questo per carità. Ma è divertente perché pensavo è come sentire l'uomo di Neanderthal, no? Uno lo studia nei libri di storia e dice come sarà l'uomo Neanderthalis. Ma non è amico, basta che tu sintonizzi sulla radio audio G e ascolti che cos'è l'uomo di Neanderthal, no? L'uomo sapiens sapiens. Senti, no, senti questa, no, senti l'uomo questa. Di Neanderthal proprio. Senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera. Continuate a dire che non ci sono soldi, non ci sono soldi. Ma per mantenere sti negri qua che arrivano da non si sa dove, ci sono. Per mantenere sti negri. Certo, non ce la faceva più. Uomo di Neanderthal. Homo Neanderthalis. Oh, Barin sui ciabattanti. Padania bella e libera, guarda avanti. Cioè non sono un po' paragonabili questi ciabattanti che ciabattano allegramente nelle nostre città ai falsi invalidi che ci pigliano per il culo da anni e da decenni in molte zone d'Italia, preferibilmente al sud? Cioè i ciabattanti, gli immigrati come i falsi invalidi. Come i falsi invalidi. Cosa vuoi dire? Ma a una persona così ti fa anche tenerezza dopo un po' tanti anni, no? Oh, poi se la piglia con noi, insieme a un ascoltatore, senti. Libertà. Servi di Roma fuori. Sì, ascolta, io allora quelli della Zanzara di loro non ho mai parlato perché veramente fanno una trasmissione patetica. si vede che sono quelli che cercano il bersaglio facile, no? Loro non indagano mai, non fanno mai. Il problema è che il bersaglio questa volta è stato il loro capo, sì, capisci? Sì. Padania bella e libera, guardava. Sali Padania. Ecco, quello che volevo dire, che quello che mi ha colpito era come gli tremava la voce quando si sono accorti dell'errore, hai capito? I servi che hanno paura di averla fatta. Io immagino Parenzo e Cruciani che si toccavano il sedere, il portafoglio nel sedere, signori, che si stava sgonfiando lentamente, bravo, capisci? Sì, hai ragione, hanno fatto una figura di cacca. No, guarda che noi la voce di Squinzi su la voce di Squinzi sugli immigrati, cioè su Prima Lavoro agli Italiani, anzi no, io l'ho messa apposta, sì, l'ho messa apposta dopo la canzone sulla rubrica di Radio Padania, come un ascoltatore di Radio Padania, se non è chiaro al genio padano, No, ma non capiscono l'ironia questi qui. Guardavano. Va bene, dove andiamo? Andiamo a Torino, Franco, vai. Testimonianza diretta che per diretta non si può sul tabagismo. Io 5 anni e mezzo fa sono stato operato alle molinette di un tumore al pancreas che mi è stato asportato. Ho, per motivi personali e miei familiari, ho vissuto 3 anni da solo in casa e sono ancora vivo, quindi questo va tutto bene. Dopo 3 anni è venuto a abitare qui una persona. Questa persona fumava e fumava sul balcone. Alla prima visita medica del follow-up oncologico alle molinette, il medico che mi ha visitato ha detto: ma lei adesso ha qualcuno in casa che fuma? Perché evidentemente dalle lastre, dall'attacco che avevo fatto, si vedevano già leggermente i danni di aver respirato dell'aria. Vabbè ragazzi, tutti contro Facci questa sera. Facci in apertura di trasmissione ha detto: basta con questa cazzata del fumo passivo, è tutta una minchiata, una balla colossale. Fermi. Io dico solo che questo programma dovrebbe essere soppresso. La Zanzara. Ragazzi, veramente siamo messi male, siamo alla frutta. Allora andiamo a Roma, Vincenzo, vai. Sì, ciao, buonasera. Dimmi. Dunque, volevo dire, a proposito di quel tassista che ha recitato una corsa, che noi abbiamo una disciplina interna del Comune di Roma, per cui chi sbaglia paga. Nella nostra disciplina in particolare, al primo rifiuto di corsa per un handicappato in particolare, c'è la sospensione della licenza che può arrivare anche a 3 mesi. Sì. Al secondo rifiuto di corsa c'è proprio la sospensione della licenza, cioè il ritiro della licenza, quello che ti auspicavi tu. No, io dico solo una cosa, no? Secondo me se tu non porti uno con la carrozzina... Ma sei un pazzo, sei, a parte che sei una persona senza un briciolo di cuore, ma insomma... Questo penso... Umanità. E questo, no? Su questo concorderanno sicuramente tutti i tassisti d'Italia che sono in collegamento con noi, cioè se, al di là del fatto che questa persona fosse una persona conosciuta o meno, non c'entra assolutamente nulla. Non c'entra assolutamente, no? Guarda, noi abbiamo delle chat interne, parliamo tra i colleghi, cioè questa persona è stata definita una bestia. Perché uno che non vuol portare una persona che ha dei problemi è fondamentalmente una bestia. Comunque c'è una disciplina. Però chiamatemi da Torino, tassisti, chiamatemi da Torino. Adesso voi che... No, Vincenzo, chiami da Roma, hai fatto bene a chiamare. Sì, che cosa si dice oggi tra i tuoi colleghi di questa storia qui? Che questa persona è una bestia, punto. Cioè, è una questione proprio di buon senso. Ho sbagliato, se uno si comporta male. È d'accordo, questo siamo d'accordo. Su questo siamo tutti d'accordo. Ma c'è un, per esempio, qualcuno che dice: te l'ha detto? Bisogna togliere. Sì, secondo le regole, ma ma le regole vanno applicate, non è che c'è una altro. Disciplina del Comune di Roma. No, d'accordo, per me è troppo poco, però togliere la licenza per 3 mesi se uno lo fa. Ma scherzi, è un danno pazzesco. Oddio, stai 3 mesi senza prendere soldi con le spese che comunque ci abbiamo. Non è proprio così, insomma, ecco. E è pesante, però seconda, pesantissimo. Alla seconda ti tolgono proprio la licenza e quindi quel valore che voi pensate, la seconda volta quando la fai un'altra cazzata, dai, su, come questa, non la fai un'altra cazzata come questa. Se sei stupido uno potrebbe anche farla, va bene. Aspetta un attimo, resta lì un attimo. Dimmi Vincenzo, dimmi. No, dicevo che anch'io ho una dipendenza. Sono zanzara dipendente. E questa ho una di smettere, ma non ci riesco. Aspetta lì, stai fermo, ti voglio far sentire Franco D'Asti. Franco, vai. Ciao Cruciani, volevo dire semplicemente che questa è l'ennesimo esempio di questi tassisti protetti e questa corporazione che non riesce a migliorare. Io Scusa, in questo caso che cazzo c'entra la protezione dei tassisti? E non vuol dire niente, tu li prendi i tassisti, li prendi i taxi. Certo che li prendi. Tu se gli chiedi di pagare con la carta di credito sembra che tu gli chieda una cosa allucinante. Ma dai, non dire cose così. Verissimo, non ce l'ha nessuno. Ma questo dove? Questo dove? Questo dove? A Milano, non ce l'ha. Non lo so quali siano i dati di Milano. Prenota un taxi la mattina, ti arriva a 25 minuti, scendi che hai 20-25 euro di tassametro. Quello lo sai prima da dove vengono più o meno. Qualcuno esagera sicuramente, qualcuno. No, quando fai la prenotazione la sera prima lo faccio regolarmente. Tu scendi e c'è 18-21 e ti dicono tu non puoi dire niente perché se hai prenotato hai quella cosa, ti metti a prenotare un altro taxi a quell'ora, è tutto così, viva Uber, prenoti i taxi dal punto in cui parti a quando arrivi e viva Uber. Breaking news. La Banca Centrale Americana ha lasciato invariati i tassi di interesse tra lo 0 e lo 0,25%. L'ultimo rialzo risale al 2006, mentre i tassi sono fermi intorno allo 0 dal 2008, anno del fallimento di Lehman Brothers. La decisione non era scontata poiché alcuni economisti credevano comunque in un rialzo dei tassi, nonostante il rallentamento dell'economia cinese e le conseguenti turbolenze sui mercati. Il Dow Jones rimane positivo, guadagna lo 0,23%. Alle 20:30, attesa la conferenza stampa di Janet Yellen, tutti gli approfondimenti in effetto notte dalle 21. Vincenzo, vuoi rispondere a Franco? Sì, come no, certo. E dunque m'ha fatto a parte che tutte molto. Queste cose, Franco, tutte queste fatto. Cose che hai detto tu, voglio dirti la verità, sui tassisti si possono discutere fino all'infinito, ma non c'entra. No, ma lascia perdere, ma non c'entra una mazza, Franco, con quello che è successo. Guarda, cioè, in un minuto ti dico quello che potrebbe succedere in un'eventualità che Uber. Allora, ammettiamo che Uber riesca a far fuori tutti i taxi regolari, ok? Vincenzo, non voglio affrontare la questione di Uber, però cioè, è per rispondere, per far capire quale scenario potrebbe aprire. Che Uber fa praticamente il servizio come monopolista, e cosa credete, che i prezzi si abbasseranno? Ecco, ragioniamo su no, questo. Ma lasciamo perdere i prezzi, eccetera. Uber ci fa fuori a noi. Sì, ma non me ne frega niente adesso di affrontare la questione di. Era un po' questo il. Sì, ma la questione di Franco è un'altra. Franco, voglio capire da te cosa c'entra tutto quello che hai detto con la vicenda di Torino della taxi negato a Pancalli che è sulla sedia a rotelle. Dimmi. Franco? Fa parte di un quadro. Cioè, secondo te i tassisti se lo possono permettere mentre un altro non se lo potrebbe permettere di fare? Bravo, questo, certo, ma sono protetti, ragazzi. Cioè, i tassisti sono più bestie di altri, no, dici? No, però voglio dire, sono protetti, perché sa benissimo quel tassista che non poteva fare quello che ha fatto, no? Però non mi pare che siano protetti in questo caso, perché se verrà sanzionato, intanto individuato chi è stato e poi sanzionato, mi pare. Verrà sanzionato. Ma vediamo, aspettiamo. Beh, questo come qualunque categoria. Quale? Come giudice? No, dico, ogni categoria poi ha le sue protezioni, no? Ha i suoi sistemi, per cui non penso che. Però deve essere sanzionato, cioè, sicuro. Allora mettiamola così: non mi sono simpatici, diciamo. Questo è un altro discorso. Ma non c'entra niente, Franco, questo però con quello che è successo, scusami, cioè, ci possono essere delle bestie ovunque, è vero che magari altri ci sono sanzioni più pesanti per altri, ma quello che ci diceva prima Vincenzo mi sembra abbastanza chiaro, cioè se questo qua dovrebbe essere, se pizzicato, come sarà pizzicato, avrà la licenza sospesa non so per quanto mesi, almeno a Roma, no? Marco da Torino, vai Marco. Buonasera a tutti, volevo dire che Sanremo Iniziale siete due bastardi, ma nel senso buono, perché ci avete coinvolto tanto in questo programma, che quando inizia la zanzara si deve fermare il mondo, non possiamo parlare né più tra colleghi, non possiamo ricevere. Ma tu sei un tassista? Sei un tassista? No, sono un autista. Autista. Ragazzi, da Torino, maledetti quasi. Tassisti di Torino che ci stanno ascoltando, maledetti in senso buono, naturalmente. Chiamateci 800-24-00-24 su questa vicenda di Pancalli del taxi negato. Dai, Marco, dimmi. Poi ho il sistema per il problema dei migranti, no? E quale sarebbe? Allora, ti spiego subito. Loro stanno nel paese loro, sono in guerra, no? Stanno perché c'è la guerra, non perché hanno bisogno di lavoro e roba varia. Allora, quando vengono qua, prendiamo tutti i giovani adulti, gli uomini, li armiamo, li addestriamo e li mandiamo di nuovo al paese loro a combattere da chi sono attaccati. Perché tu immagini se qua viene qualcuno in Italia e ci vorrebbe attaccare a noi, ok? Noi mica scappiamo, noi andiamo, piuttosto ci facciamo ammazzare. Sì, però Marco, diciamo, qualcuno in passato è scappato. Vabbè Marco, qual è la tua ricetta? Non ho capito. Questi qua che vengono dalle guerre, profughi, li armiamo, li addestriamo, li mandiamo a fare cosa? Li rimandiamo al paese loro a combattere da chi sono attaccati. Ma magari noi non vogliamo fare la guerra lì, cioè non è no, così scontato. Mandiamo a loro stessi, li rimandiamo loro di andare a combattere. Ma da questi chi non gli fate combattere magari, cioè questi magari non gli fate combattere, amico mio. E vabbè, però se noi ci attacco in Italia che facciamo? Scappiamo? Non combattiamo con questa gente che ci viene attaccare? Immagino che vengono qui a attaccarci in Italia, che facciamo? Scappiamo tutti quanti? Qualcuno si è scappato. Vabbè Marco, vabbè, ho capito. Mi sembra anche questa una cosa inapplicabile. Mario da Roma, vai Mario. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Dimmi. Io volevo fare una domanda a Parenzo, per favore. Volevo sapere lui che tipo di problema ha avuto da piccolino. Cioè qualcosa deve essere successo. Sono stato forse troppo amato dai miei e quindi troppo considerato alla fine. E questo forse ha creato in me questo atteggiamento un po' così. Sì, forse troppe attenzioni, troppo amato, troppo coccolato. Sì, questo forse sì. Lei che problema invece ha avuto? Io il contrario. Sono stato amato altrettanto, sono cresciuto con l'idea che cresciuto la normalità, con l'odio la parola, e quindi no, certo, ma quale, capito, Parenzo, sì. Allora, in attimo avanti sono un miliardo e due, giusto? Un miliardo di persone, oltre un miliardo, adesso non so il dato. Guardi in Cina. Vengono tutti quanti coi barconi di qua da noi. Li dobbiamo accettare tutti. No tesoro, non vogliono venire qui tesoro mio, ti spiego. Okay, voglio andare, non vogliono venire qua, come non vogliono stare in Ungheria, come non vogliono stare in Croazia, vogliono modo di pensare da buonisti del ma cavolo, ma nessuno è buono, io non sono buono per niente. La cultura nord europea scandinava che poi si è permeata con la tua cultura da comunista, perché io tua della Boldrini, di tutta la gente come te, perché io vorrei sapere ma qual è la soluzione per fermarli che tu proponi, quale è? Ma intanto, infatti io non ho mai parlato, infatti io se lei ascolta non ho mai parlato di fermarli, no, è esattamente il contrario, non li vuole fermare. Hai mai sentito Cruciani che io ho detto fermiamoli? No, hai mai sentito? Purtroppo almeno no. La coerenza, ho capito, ma riconoscetemi, non ho mai detto di creare dei corridoi umanitari, sì sì sì certo, come ha fatto la Croazia, cioè, in queste entrino ore entrino tutti corridoi umanitari, no, quindi si aiuta tutti ad andare a raggiungere il paese che vogliono, ah, ognuno intanto può andare nel paese che vuole, puoi creare ognuno può andare nel paese che vuole, tu dici questo senza dubbio, cioè che siano migranti, profughi, economici, puoi tutti degli avamposti nei loro paesi laddove si può, laddove non c'è la guerra, tutti ad esempio, indiscriminatamente degli avamposti dell'ONU e non solo dell'Europa, gli avamposti dell'ONU, sì, ma la cosa è chiaro che è complessa dell'ONU. Ma questo simpatico salame poco amato da piccolo che telefona, è evidente che per lui la parola d'ordine alla ruspa è fermiamoli tutti, che non si capisce neanche come li fermi, come perché no, anche sono il paesi tuo che ce la fanno, il tuo editore Orban, tu dovresti fare la zanzara da Orban, secondo ma me staresti benissimo, non me ne frega un cazzo di Orban, devi fare, tu sei delle cose corrette secondo ecco me appunto. Allora tu, il tuo amico un po' Orban, ma corrette, dimostra il tuo amico Orban che non sta fermando proprio una fava, ma invece sai, sì, nessuna fava ferma, perché quelli continuano ad arrivare nonostante le immagini, ma infatti spinato non ho detto che si può evitare in toto, si può allora, però cercare di limitare, dare un messaggio cosa che limita? Qui non si entra, fa solo da, ma non sta facendo va esattamente bene, allora, il contrario, facciamo entrare tutti, nulla, facciamo entrare certo tutti, riduciamo certo il danno, facciamo Mario, dei, allora corridoi dei corridoi umanitari, Mario, diamogli fammi, da vabbè, bere e da sei, mangiare, non quando sei, non sei Renzi, non sei l'ONU, il segretario generale dell'ONU. Mi ha chiesto cosa penso, non vai, ho mai Mario detto di fermarli, mai. Posso avere il diritto di non voler dire con questo certo interno? Può averlo. Ma dove pensi, pensi no, noi che dobbiamo convivere con lei, pensi un po'. Ma pensi con, no, me, con me, tu devi incontrare Gabebe, già ve l'ho detto una volta. Pensi Mario, noi, non si sente però, amico mio, parla meglio, togliti l'auricolare o qualcosa. No, l'auricolare non ho nulla. Lui dovrebbe incontrare Gabebe, perché non se ne può più di sta gente. Non se ne può più. Io vorrei sapere. Ma io già incontro legge, quello mi basta. Diritto di culto e possono fare le moschee. Ma e cosa vuol dire? Ti cominciano a cucinare se c'è di al sotto, pakistani, indiani, cominciano come a cucinare. Ma lei non cucina a casa sua, non l'ho capito. Sì, sai cosa cucina lei a casa sua? Ma la salazione di cipolle. Ma lei cucinerà anche lei un pomodoro con la cipolla o no? Lei non usa la cipolla. Deve rispettare determinate regole. E quindi non deve cucinare la cipolla. Ma guarda che è curioso questo. Cioè, ma lei è curioso forte, sa. Mario, fermo lì che ti richiamo, che non si sente niente. È curioso sto signore. Tu ti devi fare le punture di risanamento del cervello. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta La Zanzara. Allora Mario, che dicevi a Parenzo? Non ho capito. Dicevo che io se faccio il soffritto di pomodoro lo faccio nel rispetto e non vado a dare fastidio ai miei vicini con queste fumate di cibo dalla mattina alla sera. Tu, pakistano, indiano, cingalese, qualsiasi nazionalità tu sia, africano, hai le tue usanze, cerca un po' di rispettare i tuoi vicini. Ma adesso però, ma non merito, Mario, a cosa si riferisce? Però dica un episodio circoscritto. Che problemi hai avuto con questi signori? Se tu hai una famiglia di indiani sotto, che ti abita sotto e cucinano, fanno la loro cucina speziata dalla mattina alla sera, non puoi più neanche affacciarti al balcone. Ma scusi, non mi voglio arrabbiare, Giulio, non so come si chiama questo. Loro non vengono alle riunioni di condominio. Glielo fai presente andando Mario, a come si chiama? Mario, scusami Mario, perdonami, senza arrabbiarci. No, arrabbiati. Adesso infatti parto piano, poi mi arrabbio. Scusami, se tu abitassi sopra un ristorante, un ristorante qualunque, a me è capitato, ad esempio. Devono avere le cappe iniziali. Ma comunque, per ma perché bisogna generalizzare così su tutto? Poi, io non ho capito. Se un ristorante è di un italiano, di uno straniero, non mi interessa, non rispetta le regole, andasse l'ASL e li facesse giudicare. Appunto, basta, ma che vuol dire adesso? Allora, caro Parenzo, io ce l'ho anche caro con un italiano, amico mio, Mario. Io ce l'ho anche con un italiano che non rispetta le regole. E allora basta, la gente giusto? La gente come te, ma la gente come me quale? Che vota gli indulti, ma questa non c'entra niente. Vota indulti le votati Maroni, ma che cosa stai dicendo? Io non voto niente perché non sono un politico. Ma Maroni non ha votato gli indulti? Tu sei Maroni non ha fatto le sanatorie quando era ministro degli interni. Chiedi a Cruciani, che è quello che mette la benzina nella ruspa di Salvini. Chiedi a Cruciani, che è più obiettivo di me. Allora, ho altri pensieri adesso che non rispondo alle tue cazzate. No, Maroni quando era ministro degli interni non ha fatto le sanatorie per i migranti. Certo, assolutamente sì. Basta, fine della trasmissione. Arrivederci, pubblicità e torniamo alle breaking news. Mario, allora? Allora sì, se le breaking news sono quelle interessanti come quelle di prima, la Federal Reserve ascolta sulle gingive ti deve arrivare t'ha risposto Cruciani, hai sentito cosa ha detto? No, certo che ha fatto, sentito no, ma chi l'ha mai negato, chi se ne frega, allora no, siccome dice che io ho fatto voto in due, dato non voto niente, faccio il giornalista. Maroni, quando era ministro degli interni, ha fatto la più grande sanatoria di migranti al mondo. Sono andato a scuola a scrivere la mia figlia. A scrivere. Io io ho dovuto firmare un documento dove c'era scritto genitore 1 e genitore 2. Sì, mi sono veramente incazzato. Sono incappato in uno di questi inservienti scolastici che inservienti, collaboratori scolastici, inservienti. Collaboratori scolastici, come te, il bidello non viene più chiamato. Allora sotto di sé di schiavi. Scolastici, inservienti, ha rovinato l'Italia. Come parla questo? Inservienti, Mario. Però, scusa un attimo: genitore 1 e genitore 2 è un esatto. Spiegaglielo ancora. Spiegaglielo, genitore 1, a parte che sei passato dai problemi dell'immigrazione ad altri problemi. Spiegaglielo tu cosa vuol dire genitore 1 e genitore 2. Genitore 1 e genitore 2, chi ha scritto genitore 1 e genitore 2? No, chi ha scritto quella cosa lì? Se l'ha scritta perché vuole eliminare. L'esistenza dell'uomo e della donna, padre, ma non è così, ma non è così, ma non è così, somaro d'un somaro, ma non è, ma non vuol dire chi va a prendere la bambina o il bambino a scuola, vuol dire genitore uno, ma quella era una mamma. Ma non vuol dire, non vuol dire genitore 1, genitore 2, perché possono essere due uomini o due donne. Appunto. Dai, su. Ma ne riparleremo. No, no, ma dai. Questa fobia, questa fobia dell'insegnamento. Aspetta un attimo, questa fobia dell'insegnamento, dell'imposizione a scuola, delle cosiddette inesistenti teorie gender, è una cosa ridicola. Nessuno insegna che non esistono più i sessi diversi a scuola. Nessuno dà lezioni di omosessualità a scuola, ove avvenisse sarebbe comunque a mio parere gravissimo, e sicuramente una minoranza delle minoranze delle scuole dove qualche professore fa lezioni a non so quali alunni sull'omosessualità, sulla diversità, che a mio parere non andrebbe fatta, non andrebbe fatta. E questa cosa qua di genitore 1, genitore 2 non è collegata all'obiettivo di cancellare il genitore. Perché quando ho chiesto perché non c'era scritto padre e madre, ha detto perché non è politicamente corretto. Vabbè, ma chi l'ha detto così è un cretino peggio di chi ci crede. Era nella segreteria della scuola, mi ha stato va bene. Ciao così. Mario, Sergio da Milano. Ciao. Vai Sergio, ciao. Dimmi. Ciao ragazzi, Beppe sei un grande, e Parenzo ancora di più, perché lui, sono tutti contro lui, io sono antirazzista, quindi vai Parenzo, non abbatterti mai, che c'hai un supporter tassista con te. Vai Sergio, abbiamo scoperto che sei tassista. Grazie, dimmi Sergio. Bravo. No, grazie. Volevo dire, allora, se è vero quella del collega, sì, è vero, perché la persona che l'ha raccontata è una persona assolutamente credibile, che non è che si inventa cazzate, eh? No, però perché, detto questo, magari la versione del tassista sarà diversa, siamo qui pronti ad ascoltarla, eh? Sì, perché te lo dico, perché la Gerini se l'è presa con i colleghi di Roma, poi siamo andati a vedere i tweet e ha fatto la testimonial di Uber, vabbè, comunque a parte questo, no, non risulta però abbia fatto la testimonial di Uber, se vuoi via Twitter ti mando la foto con la pubblicità che ha fatto. Cioè, tu mi stai dicendo che la Gerini l'avrebbe fatto per quello, non lo so io, ha fatto la testimonial di Uber. Quando l'ha fatta la testimonial di Uber? Lei è libera di fare quello che vuole. Ma ha fatto la testimonial di Uber dove, la Gerini? Ha fatto la testimonial di Uber, che ha mandato attraverso Uber un codice promozionale alla quale codice promozionale non significa fare aspetta, era affiliato a lei. Era affiliato a lei, tant'è vero che qualcuno gli ha scritto, ma è un fake, e Uber ha risposto dicendo no, non è un fake, è fake, è tutto vero, comunque c'è in rete. Adesso, a parte questo, oramai poi ha fatto pace la Gerini, che ha chiesto scusa, quindi il caso è chiuso. Però quello che ti voglio dire io, se è vero, se è vero, io non posso dire cosa la penso di quel collega, sei un grandissimo pezzo di merda, perché le persone... non vanno trattate in questo modo, soprattutto le persone che hanno problemi motori e problemi di diverso genere. Ecco, questo volevo dirgli. Poi ti garantisco che se lo pescano gli danno una bella sospensione, e per un tassista una bella sospensione è un gran danno. Sì, tre mesi, se non ha preso, ripeto, se non ha preso una persona disabile in carrossina, tre mesi mi sembrano anche pochi, perché è un danno, tre mesi senza stipendio. Guarda che pochi è tantissimo, ho capito, per un ragazzi, però, lavoratore professionista. Se tu non prendi uno perché c'ha la sedia a rotelle, come dice Sergio, sei un pezzo di merda. Diciamola chiaro. No, d'accordo, ma la sanzione a me non sta simpatico per nulla, ovviamente. Diciamo la verità, Sergio, che cos'è questo signore, sempre se la storia venisse confermata? No, allora, se la storia è vera, lui non dovrebbe fare più il tassista. Ah, secondo te tolta proprio la licenza? Va tolta la licenza. Allora, tolta la licenza, questo io non sono in grado di dirlo. Beh, perché tu l'hai detto, No, io ho detto una sospensione della licenza, almeno, capisci? Quindi penso che non ci siano dubbi su questo, cioè chiunque, qualsiasi tassista, guarda, che li chiedi, non penso che... Dimmi. Va bene, ciao. No, no, ciao, ma ha ragione, ciao, però appena è lo dura. Facciamo solo noi di salire sopra il tetto, di pretendere rispetto da chi proprio non ce n'ha. Lo facciamo solo noi di non fare compromessi. Ed eccolo qui l'autore dell'inno del Movimento 5 Stelle, che Grillo dice bisogna imparare a memoria, Andrea Tosatto, è uno psicologo in collegamento da Dubai. Buonasera. Ciao ragazzi. Ciao Andrea, come va? Ciao bene, voi? Ma bene. Cosa fai a Dubai, amico mio, scusami? È uno psicologo. Faccio tra l'altro. Psicologo. Ma no, che cazzo vai a fare a Dubai però? Questo bisogna chiederlo a quei bastardi che ci hanno costretto ad emigrare, cosa vado a fare a Dubai. Cioè? Perché chiudendo tutti gli spazi, togliendo tutti gli spazi e non dando possibilità ai ragazzi, alle persone, dopo essersi laureati, di di trovare, diciamo, un lavoro dignitoso, un qualcosa da fare che li gratifichi, di fatto li costringono all'espatrio e quindi bastardi, tu che dici, come dire, quelli che ci governano. Ma l'hai detto tu. No, hai detto tu hai detto bastardi, mica ho detto io, cioè tu hai detto quello. Comunque stai al top, detto, amico mio. Quindi, diciamo che iniziamo una telefonata d'accordo. No, d'accordo, no, ho capito. Però tu hai detto quei bastardi sono i governanti, cioè chi è che ci costringe ad emigrare, scusami. Non so chi è che ci costringe ad emigrare, questo che è interessante capire, chi è diciamo che tira i fili e ci costringe ad emigrare, però qualcuno ci costringe ad emigrare di fatto. No, però scusami, al di là di questo, mi interessa capire cosa fa uno psicologo a Dubai, però. Questo è il punto. Perché è proprio a Dubai? Stai al top comunque, no, ragione, perché, presto, secondo me stai alla grandissima. Io sono stato a Dubai 7 giorni a gennaio, a dicembre scorso, posto meraviglioso. Non ci vivrei mai, ma meraviglioso per 7 giorni. Ma tu, cos'è lo psicologo a Dubai? Da chi va? A Dubai non c'è nessuno che ha bisogno di uno psicologo. No, a Dubai stanno tutti alla grandissima, stanno. Ferrari, Dubai, cose. Dubai è una diciamo una metropoli multietnica, multiculturale, ci sono persone di tutto il mondo, quindi in realtà poi i problemi delle persone poi sono sempre gli stessi a prescindere dalla nazionalità o da paese. Tutti i problemi sono solo Ferrari, sushi, cose. Scusami, pazzesche. Andrea, ma tu quali sono i tuoi pazienti a Dubai? Ma se sei icchi, ma cose, allora io dai. mi occupo per la maggior parte di adozioni internazionali, cioè praticamente preparo le coppie, diciamo, di provenienti da varie parti del mondo che vogliono adottare all'estero, e gli do un certificato di idoneità psicologica e con questo poi loro si vanno all'estero, adottano, e poi faccio il normale, il counseling per persone che hanno, non so, fobie, scusa, quanto costa affittare una casa a Dubai? Chi è che ha depressione e ansia a Dubai? Chi è che ha depressione? Io ho la depressione, non sono a Dubai, scusa. Io sono depresso, non chi sta lì con i miliardari. Non pensare che poi alla fine i soldi ti diano veramente la... C'è anche il miliardario si deprime. Cioè tu mi stai dicendo che hai, al di là delle adozioni internazionali di cui ti occupi, hai dei clienti, che ne so, dei ricchi sceicchi che... Depressi. Sì, non solo ricchi sceicchi, ma anche persone, cioè Dubai è fatta di persone che lavorano, cioè nel senso che Dubai è portata avanti da persone che lavorano, quindi diciamo quelle dinamiche sono un po' le stesse dell'Italia. Sì, è vero, si guadagna di più, è anche vero che le spese sono tante, quindi i problemi ci sono, e poi statisticamente hanno visto che in realtà non c'è una relazione diciamo stretta tra il guadagno e la no, benessere. ma quello non c'è dubbio. Andrea, ma adesso Grillo ha detto che questo inno va imparato a memoria da parte di tutti i militanti, ma tu ci guadagnerai qualcosa da questo inno? Cioè i diritti in qualche modo? Se lo impareranno davvero tutti a memoria, ci guadagno in soddisfazione diciamo in speranza di aver dato il mio piccolo contributo per cercare di cambiare un po' le situazioni, perché ti giuro che... Ma i soldi ci guadagnerai o no dai soldi? A livello, no, ma io non i soldi non sono una cosa che a cui... Vabbè, ma tu fai anche musicista, oltre lo psicologo, fai anche musicista. Certo, però diciamo l'intento mio non è di guadagnare, l'intento mio è di... diciamo a dare il mio piccolo contributo per cercare di farci anche rispettare un po' di più all'estero, perché io non so se voi avete la percezione oggettiva delle cose vivendo in Italia, ma io vi dico che da qua, cioè, ci pigliano per il culo anche a Paperopoli e che dicono? Ci pigliano per il culo, cioè, in che modo? Io sono andato via nel 2008 sicuro che Berlusconi fosse il peggio che potessimo avere, che non si potesse peggiorare. Invece Renzi è proprio l'esempio vivente che nella vita non bisogna mai dare niente per scontato. Perché, cioè, peggio di Berlusconi, secondo te? Ma io credo che siamo nelle mani di una persona, di un egocentrismo smisurato, che non si sa valutare, che parla inglese non sapendolo e nessuno gli dice niente. Cioè, vuol dire, io ho fatto una canzoncina. Ma che diagnosi fai? Ma è una malattia? Aspetta, fammi sentire questa cosa lì. Ho fatto una canzoncina, Aldo Grasso ha fatto un'analisi della mia canzone parola per parola come se fosse un'opera leopardiana, no? Dire, ma lì forse ha sbagliato un accento, ma forse c'è una metrica, eh? E poi Renzi va pubblicamente, in un'occasione pubblica ufficiale, a parlare inglese senza saperlo, e senza sapersi valutare, che questa è una cosa gravissima, no? E nessuno dice niente, ma in realtà non è vero. Ma non è vero, l'hanno preso per il culo in tutte le salse, dai. Ma continua a farlo, qualcuno deve bloccarlo, perché poi ci piglia per il culo al mondo. Ma è pericoloso, Renzi, capisci? Secondo te? È pericoloso, perché una persona che in un momento in cui le persone non arrivano a fine mese e si suicidano, perché ce n'è stato ancora uno oggi, lui si spende 200 milioni di euro per farci, cioè ci spende, perché sono soldi nostri, per farsi un Airbus con la camera da letto e il wifi per mandare i Twitter, secondo me è molto pericoloso. Poi fermi tutti, pubblicità, poi torniamo a Dubai con Andrea Tosatto, autore del nuovo inno 5 stelle. Bravissimi tutti quanti, eccetera, eccetera. Però siete due conduttori da festival dell'ovvietà. State ascoltando un programma offerto da G-Group, la prima multinazionale italiana del lavoro. Scopri i nostri servizi su ggroup.com. La Zanzara. Noi diamo i soldi per fare le strade, loro distruggono la scuola pubblica. Com'è che fa Andrea la canzone? Non c'è prova. No, non c'è prova, mamma mia, che sarà mai cantare 10 secondi una strofa? Che sei? No, no, dammi il testo, no, la canto possiamo, io. Dai, su. Lo possiamo fare. Dai, su, non esageriamo. Com'è che fa? Quella che ti piace di più, cantami la strofa che ti piace di più. Quella che dice. Cioè, quella più significativa, quella è proprio il simbolo del Movimento 5 Stelle contro la casta, contro quelli che tu hai chiamato i bastardi. Ma guarda, io ti dico una cosa, poi in realtà io quello che canto è quello che penso, quello che ma dico, lo so, per questo te lo chiedo. Io dico cose che sono simboli per me. Poi, cioè, tu non sei come altri che magari vengono. Ovviamente, capito, si rispecchiano in tanti attivisti, in tante persone del Movimento 5 Stelle, perché come io spero che si rispecchino in tante persone oneste. Vabbè. Che magari non hanno ancora aderito al movimento. Nel senso che oramai non è più una questione di movimento e di altri partiti, è una questione di persone oneste e criminali. Cioè, da una parte ci sono le persone oneste, dall'altra ci sono i criminali. Che il PD fa parte dei criminali? Il PD è un partito che ha delle collusioni estremamente forti con associazioni criminali. Cioè il PD che manifesta contro la mafia, capisci? Cioè è come Berlusconi che manifesta contro la figa, no? Nel senso, come concetto. Questo è forte. È fortissimo, bravo. Com'è che? Dai, dimmi. Voglio il testo. Io faccio questo appello al ministro Giannini. Si chiama così il ministro dell'istruzione? Sai, sì, che non mi ricordo come, sì, si chiama. Ministro Giannini. Per quanto possa contare la Giannini. La Brunetta. Deve essere insegnato nelle scuole questo testo. Com'è che fa? Dai, dimmi una strofa, lo facciamo. Io credo che la cosa che in questo momento penso di più è questa: è accidente a 3 marionette fanno più danni delle sigarette. Marionette perché non sono liberi, perché il Movimento 5 Stelle secondo me è l'unica speranza. Perché vabbè, se non fare il comizio, però Andrea. Il comizio. Hai parlato con Grillo per questo inno o no? Sì. No, non ho parlato con Grillo, sono contento che gli sia piaciuto. Sfortunatamente io per la prima volta nella mia vita, io ho 42 anni, per la prima volta quando parla Grillo, quando parlano i ragazzi del Movimento 5 Stelle, mi sento rappresentato, sento che dicono le cose che da 40 anni avrei voluto sentire. Vabbè. Dire e che nessuno ha mai detto, capisci? Dimmi una cosa, lo facciamo solo noi. È fantastica, eh? È una cosa meravigliosa. Cioè, adesso, al di là delle parole di cui non condivido nulla, ma è straordinario. Cioè, come te è meglio questo del famoso inno dell'Udeirut, lo ricordi? Tu scherzi, inno dell'Udeur? Certo. Era fantastico. Ma falla sentire tutta, però non interrompere un'emozione. Sì, è lunghissima, dai, è lunghissima. Tutta. No, ma l'inno dell'Udeur, te lo ricordi l'inno dell'Udeur? Ragazzi, io dico che dovete darci una mano, perché dovete dare una mano. Però aspetta, sì, diamo una mano, ha ragione. Ma diamo che una diamo mano. Una mano? Questa è la trasmissione. Che è diventata dei 5 Stelle. No, ha ragione, mi sta simpatico. Si stanno mangiando l'Italia, ci sono dei ragazzi che non hanno ragione, futuro. Ragione. Vabbè, ragazzi, fatemi sentire l'inno dell'Udeur, se ce l'abbiamo ancora. Ce l'abbiamo l'inno dell'Udeur. Questo non era male, dai. Udeur verrà, non era male. Ma infatti non è più venuto da nessuna parte, dai. Era vai sentire l'altro, è scomparso completamente. Qual era l'altro? Questo dei 5 Stelle, voglio sentire qualche strofa completa senza il tuo gracchiarci sopra. Ma adesso, quello del PD, qual è? IMPD, no, ma non è più questo qua del PD. Quello che hanno contestato. Il PD c'era lo Smacchiamo, che era molto bello. Lo Smacchiamo era bello, non era male. La canzone popolare era la migliore, dell'Ulivo. Quella era stata la miglior fase. Comunque, si è sbagliata la critica a questa che fa pure il signor Grasso a questa roba qua. Un inno kitsch, come deve essere un inno? Non è che. Ma pensa che Grasso è arrivato a dire che il kitsch è vedere coi binocoli. Le stampanti 3D e le macchine che guidano da sole e le persone paralizzate che si alzano attraverso l'esoscheletro. Cioè, io non so che cos'è il futuro che si immagina il signor Grasso non kitsch. Cioè, magari forse non so, un'Europa di vabbè, miserabili assoggettati. Diciamo che è in linea con i tempi questo inno. Diciamo che è in linea con lo stile del movimento e con i tempi, ecco, diciamo così, su, che se no. Va bene, ciao Andrea, a presto. Bella, ciao. Vabbè, dai, dove andiamo? Massimo Treviso. Massimo, rimettila un altro po' quella canzone di Torino, che... I tassisti di Torino. Massimo da Treviso, dai. Pronto? Dimmi. Pronto? Massimo, dai. Sì, mi senti, sì? Sì. Ok, perfetto, fantastico, ciao a tutti e due. Allora, il buon Parenzo, padovano come me, volevo fargli un piccolissimo appunto, penso che lo gradirà. Non si dice Neanderthalis, ma Neanderthalensis. Bravo, sì, scusami, hai ragione, è verissimo. Neanderthalensis, bravo. E poi, caro mio Parenzo, se mi permetti 2 secondi di serietà. Sì. Sì. Sarebbe interessante ragionare sul fatto che l'uomo Neanderthalensis, che aveva una cultura era molto evoluto evoluta, in realtà sì, era certo. Molto evoluto, quindi sì, non, erano, certo. Non erano le bestie di cui si parlava prima. Comunque ha subito un flusso migratorio dall'Homo sapiens sapiens, sì, che arrivava dall'Africa, e questa ha portato alla scomparsa della sua civiltà. E quindi la domanda che ti faccio io è molto semplice: non è che per caso quello che abbiamo paura non è tanto il colore della pelle, ma il fatto che arrivino culture diverse dalle nostre? Certo, ma è ovvio che vengono culture diverse dalle nostre, ma sì, siamo a quello la società cresce, si moltiplica, vengono nuove idee, vengono nuovi mercati, vengono nuove persone in grado di comprare i prodotti che tu fabbrichi, caro italiano, perché questo è quello che succede nel mondo. Lascia stare i mercati, io ti sto semplicemente dicendo, forse la paura è una paura più atavica, più legata al senso di identità. Vabbè, e quindi adesso, forse identità, ma uno può continuare a mangiare la polenta, Germania, tranquillamente Germania, il couscous, no, non c'è problema, Germania, la polenta mangiamola, no, io la mangio. Perfino in Germania qualcuno, credo il direttore italiano di un giornale, si domanda, che è molto aperto nei confronti degli immigrati, eccetera, eccetera, si dice, beh sì, la Merkel ha detto prendiamoli, cioè ospiteremo non so quanti immigrati in 2-3 anni. Però non è così facile. Per evitare che ci siano i neonazisti che impazzano, certo che non è facile. Aspetta, è necessario controllare bene i documenti, perché in Serbia, certo, per esempio, si sta sviluppando un commercio di passaporti falsi. Cioè, quando uno viene a casa tua, uno questo dice, cioè non è razzismo dire, ma quando uno aspetta, no, non è evidente. Quando uno viene a casa tua, non è vero, con quella felpa, dite delle cose evidenti. Quando uno viene a casa tua, gli devi chiedere chi è, chi non è, perché vieni qui, eccetera, eccetera. Ma chi eccetera ha detto di no a no, questa cosa? No, invece non è così. Gli hotspot, sai cosa sì, sono ma gli hotspot? Per carità, gli hotspot è un'altra fregatura che ci stanno dando. Sebastiano allora, dalla provincia di Catanzaro. Come si fa a individuare le persone? Come si Sebastiano dalla provincia di Catanzaro. Sì, buonasera. Gli hotspot in Italia? Buonasera. No, li facessero a Malta, li facessero... Ci sono anche previsti in 6 posti in Italia. Vai. Male, buonasera, malissimo. Cruciani, buonasera Parenzo. Sì. Buonasera Cruciani, buonasera. Sì, vabbè, l'abbiamo capito però, Sebastiano, buonasera. Dai. No, se non ho sentito, scusa. Dai. Io chiamavo per dire che innanzitutto questi migranti che vogliono transitare in Italia in realtà sono bloccati dalle varie associazioni Onlus o apparentemente tali, che li utilizzano perché guadagnano sul soggiorno di questi in Italia, prendono contributi, in realtà questi qua non c'è dubbio che ci siano ma è una vita allora, che la gente mangia sull'immigrazione, dai, esattamente. Questi dalla sinistra realtà, si svegliano solo adesso, quindi, dai, è una vita che la gente cosa vuol dire questo, non riesco a capire cosa vuol dire mangia sull'immigrazione. Ah no, non c'è gente che ci mangia, non c'è gente che mangia sull'immigrazione oggi. Ma cosa vuol dire mangia? Non ci sono no. Ma certo ci sono dei ladri, ma non affari, ci sono stati dei ladri. C'è gente che campa, associazioni che campano solo con l'esistenza dei clandestini. Però mettiti d'accordo con te stesso, l'immigrazione ci sarà sempre. Allora decidi tu come si deve gestire il fenomeno. Anche senza clandestini, alla media, come l'Australia, te l'ho già detto. La media terma è stata ripulita dai migranti perché ci sono organizzazioni sociali, Onlus, che le hanno utilizzate prendendo contributi dal comune, hanno ripulito tutti quanti i corsi d'acqua che attraversano la Mesia. Se prima erano ricettacoli di porcheria, di spazzatura, di topi, adesso sono diventati parchi fluviali, hanno ripulito tutte quante le zone d'ingresso con i migranti. Alla fine. Ma è male, secondo me è sbagliato. È sbagliato anche questo. È sbagliato anche questo. Sarà sbagliato anche questo perché attività che dovrebbe svolgere il comune vengono svolte. Ma certo, non è che possono utilizzare gli immigrati magari a un costo inferiore, a basso costo, per ripulire i fiumi, come dici tu. Dai, è sbagliatissimo. Siamo d'accordo, però anziché lasci perdere il risultato, che pure è importante aver ottenuto un risultato, ma è sbagliato, come quelli che dicono fategli fare un lavoro, no, qualunque tipo di lavoro, magari anche gratis, sbagliatissimo, sbagliato. Siamo d'accordo, però perlomeno hanno avuto un'utilità sociale. Ma che vuol dire? Non vuol dire niente questa roba qua, dai. Non devi guardare nel lungo periodo, non nel breve periodo, ripulire un fiume, ma lo ripulisse il comune con tutti i soldi che si mangiano, no? Non gli immigrati magari a 0 euro. Dai, Alberto da Milano, Alberto. Sì, ciao Cruciani. Dimmi. Ascolta, io faccio il tassista a Milano da 30 anni. Sì. E prima è intervenuto quel Franco, che non so di quale città, di quale realtà parlasse. Sì. Dicendo che arriviamo con le prenotazioni con 20-22 euro. Allora, vabbè, ma piace... ragazzi, questo è uno che ha detto che gli è capitato qualche volta che quando ha prenotato un taxi gli è arrivato un taxi con un costo esorbitante. No, no, no, non può dire questo. E tu, Cruciani, che io accetto le logiche del tuo programma, però non puoi permettere, tu sei anche un utente qui sulla piazza di Milano, non puoi permettere che si dicano queste cose. Ma io non ho detto niente, Alberto, l'ha detto quel tizio là, ho detto guarda, mi pare difficile, non è che uno arriva con 20 euro. No, non è difficile perché la prenotazione con 20 euro è un furto, noi con 22 euro andiamo dall'Expo alla stazione centrale. Ma va bene, Alberto, adesso l'hai detto tu, benissimo, poi andiamo avanti. Andiamo avanti. Il tema è un altro. Alberto, allora, il tema è un altro. Il tema, vogliamo parlare di Pancalli? Allora, ascoltiamo anche l'altra campana prima di dire che la licenza di questo collega deve essere sospesa, deve prendere 3 mesi, 6 mesi l'ergastolo. Perché magari lui può avere una Prius o una 500, io ho uno Scudo a 7 posti e la carrozzina la carico senza neanche piegarla. Tutti la devono caricare, Alberto. Allora il comune non può omologare le Prius, perché le Prius con la batteria che hanno non possono fisicamente caricare una carrozzina. No, vabbè, Alberto, allora, non dire cazzate, dai, su. No, perché no. Non dico cazzate? Cioè, no, ci sono delle macchine che se vengono omologate le 500 a 4 porte, tu mi devi dire come fai a caricare una carrozzina su una 500. Sì, Alberto, la questione è questa. Di fronte a un tassista arriva una persona disabile. Questa persona disabile ti chiede di salire sul taxi, io non lo so. Tu la prendi quella persona lì? Sì, ma lui sta dicendo che se il comune ha omologato macchine piccole, non si può fare. La carrozzina la puoi mettere davanti, allora, la puoi mettere davanti la carrozzina, non è che la devi mettere per forza dietro. Ci sarà lo spazio per la carrozzina che non sia il bagagliaio, no? Alberto, non ho mai lasciato a piedi nessuno in 30 anni, né un disabile né altro. Però ci sono delle macchine che oggettivamente la carozzina non la possono caricare. Ma io non credo proprio. Quali sono le macchine che non possono caricare la carrozzina? Spiegami quali sono. Te l'ho appena detto. Ma non è vero, perché non la possono mettere davanti? Scusami, non la possono mettere davanti, un sedile davanti. La carrozzina davanti in una Prius. Io su una Prius faccio fatica a stare seduto. Ma che dici? Nella cosa davanti? Piegata, la carrozzina piegata. La carrozzina ha una pieghevolezza che non è inferiore a quella di due valigie messe insieme. Io non credo che non si possa caricare una carrozzina. Comunque, hai ragione tu, dobbiamo ancora ascoltare la versione del signor tassista di Torino. Ci sentiamo domani, ciao. Ciao coppia di pazzi, ciao, buonasera. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Prendato, che ormai è tutto finito. Radio 24. La passione si sente.